Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Oro a Forcella. L'autobus che doveva lasciarmi in via Duomo, dove comincia San Biagio dei Librai, era così stipato che mi fu impossibile scendere al momento giusto, e quando finalmente misi piede a terra, la squallida facciata della stazione centrale mi stava di fronte col monumento a Garibaldi e una carovana di vetture tranviarie di un verde stinto, di neri tassi sgangherati, di carrozze tirate da piccoli cavalli che dormivano. Voltai le spalle e tornai indietro, fino a via Coletta, nel famoso rione dei tribunali. Il cielo era di un azzurro chiaro, smagliante come nelle cartoline al platino, e sotto quella luce gli uomini venivano e andavano in modo confuso, in mezzo agli edifici che sorgevano qua e là, senza ordine apparente, come nuvole. All'inizio di Forcella mi fermai, perplessa. C'era un gran movimento più su, in cima alla stretta via, un ondeggiare di colori, tra cui spiccavano il rosso chiaro e il nero, un ronzare doloroso di voci. Un mercato, pensai, o una rissa. C'era una vecchia seduta accanto a una pietra, all'angolo della via, e mi fermai a domandarle che stessero facendo tutte quelle persone. Alzò il viso butterato dal vaiolo, chiuso in un gran fazzoletto nero, guardò anche lei a quella lontana striscia di sole in mezzo a Forcella dove si gonfiava come una serpe tanta folla e ne veniva quell'alterno doloroso ronzio. «Niente stanno facendo, signor», disse calma. «Vuoi sunnata?» Erano anni che non scendevo laggiù e avevo dimenticato che Forcella, con San Biagio dei Librai, è una delle vie più fittamente popolate di Napoli, dove l'andirvieni della gente dà spesso la sensazione di un avvenimento straordinario. Il sole, attraverso il velo della polvere, diffondeva una luce rossigna, non più gaia. Dalle soglie di centinaia di bottegucce o dalle sedie disposte sui marciapiedi, donne e bambini lo guardavano con una strana aria ebete. Perfino gli asini legati ai carretti della verdura sembravano colpiti dalla particolare torbidità della luce e muovevano le orecchie lunghissime a respingere i tafani con una pazienza fatta di silenziosa apatia. Da un carrettino come quelli della nettezza urbana, momentaneamente abbandonato nel centro della strada, emergeva una testa. Più sotto c'era il tronco di un uomo sui 50 anni, chiuso accuratamente in una giacca abbottonata fino al collo e cucita di sotto e di lato a modo di sacco. Un piattello dorato legato al petto con uno spago invitava il passante a lasciarvi il suo obolo, ma nessuno se ne accorgeva e, per dire la verità, neppure lui faceva qualche cosa per risvegliare la pietà pubblica. Con la guancia rossa di vino appoggiata a un sacco, le orecchie anche rosse di vino, addirittura splendenti, certi capelli grigi che gli piovevano sulle sopracciglia e un sorriso delicato sulla bocca semiaperta, quel cittadino dormiva. D'ogni parte, intanto, passavano nani e nane, vestiti decorosamente di nero, con le facce pallide, deformi, grandi occhi pietosi, le dita come rami al petto, badando a scansare i bambini e i cani che li urtavano. Altri mendicanti, minorati o semplicemente professionisti erano sdraiati a terra, con l'immagine di questo o quel santo patrono incollata sotto il mento, o con un cartello che elencava le disgrazie e i figli, come si vede anche nelle vie signorili di questa città, in Chiaia o Piazza dei Martiri, e aspettavano decentemente, o sognavano. Certe campane suonavano forte, chiamando quelle anime alla messa. Uscendo da Forcella in via Duomo, il traffico appariva più composto e come silenzioso, ma subito riprendeva più forte con San Biagio dei Librai che può dirsi il prolungamento di Forcella. Come altre vecchie e poverissime vie di Napoli, anche San Biagio dei Librai era fitta di negozi di oro. Una vetrinetta opaca, un banco eccessivamente levigato, Quanti gomiti e mani di donnette non vi si erano appoggiati da oltre un secolo, forse. Una larva d'uomo con gli occhiali che bilancia nella mano cauta e osserva silenziosamente un oggetto brillante, mentre una donnina o una vecchia, in piedi davanti al banco, lo spia con ansia. Spettacolo ancora più intenso. La trappola momentaneamente vuota e la stessa larva, uscita sulla soglia come per riposarsi, guarda vagamente intorno, spiando a sua volta nella folla l'accostarsi di un viso scolorito dai digiuni, di due occhi vergognosi. Quel tappeto di carne, che anche entrando in San Biagio dei Librai mi era parso fittissimo, una volta sul posto non c'era più, o perlomeno non era così allucinante, come non lo è più un affresco se vi ci accostate. Rimaneva un fatto. Come già a Forcella, non avevo visto ancora tante anime insieme, camminare o stare ferme, scontrarsi e sfuggirsi, salutarsi dalle finestre e chiamarsi dalle botteghe, insinuare il prezzo di una merce o gridare una preghiera con la stessa voce dolce, spezzata, cantante, ma più sul filo del lamento che della decantata allegria napoletana. Veramente era cosa che meravigliava e oscurava tutti i vostri pensieri. Sgomentava soprattutto il numero dei bambini, forza scaturita dall'inconscio, niente affatto controllata e benedetta a chi osservasse l'alone nero che circondava le loro teste. Ogni tanto ne usciva qualcuno da un buco a livello del marciapiede, muoveva qualche passetto fuori come un topo e subito rientrava. I vicoli che tagliano questa via, già così stretta e corrosa, erano ancora più stretti e corrosi. Non vedevo le lenzuola di cui è piena la tradizione napoletana, ma solo i buchi neri a cui un tempo furono esposti, finestre, porte, balconi con una scatola di latta in cui ingiallisce un po' di cedrina, vi spingevano a cercare, dietro le povere lastre, pareti e arredi e magari altre piccole finestre aperte, fiorite, su un orto dietro la casa. Ma non vedevate nulla se non un groviglio confuso di cose varie, come coperte o rottami di ceste, di vasi, di sedie, sopra i quali, come un'immagine sacra nerita dal tempo, spiccavano gli zigomi gialli di una donna, i suoi occhi immobili, pensierosi, la nera corona dei capelli raccolti sul capo con una forcina, le braccia stecchite congiunte sul grembo. Alla base del vicolo, come un tappeto persiano ridotto ora tutto grumi e filamenti, giacevano frammenti delle immondizie più varie e anche in mezzo a queste sorgevano pallide e gonfie oppure bizzarremente sottili, con le grosse teste rapate e gli occhi dolci, altre figure di bambini. Pochi quelli vestiti, i più con una maglietta che scopriva il ventre e quasi tutti scalzi o con dei sandaletti di altra epoca, tenuti insieme a furia di spago. Chi giocava con una scatola di latta, chi, disteso per terra, era intento a cospargersi accuratamente il volto di polvere. Alcuni apparivano impegnati a costruire un piccolo altare con una pietra e un santino, e c'era chi, imitando graziosamente un prete, si rivolgeva a benedire. Cercare le madri appariva follia. Di tanto in tanto ne usciva qualcuna da dietro la ruota di un carro, gridando orribilmente, afferrava per il polso il bambino, lo trascinava in una tana da cui poi fuggivano urli e pianti, e si vedeva un pettine brandito in aria o una bacinella di ferro appoggiata su una sedia, dove lo sfortunato era costretto a piegare la sua dolorosa faccia. Faceva contrasto a questa selvaggia durezza dei vicoli la soavità dei volti raffiguranti madonne e bambini, vergini e martiri, che apparivano in quasi tutti i negozi di San Biagio dei Librai, chini su una culla dorata e infiorata e velata di merletti finissimi, di cui non esisteva nella realtà la minima traccia. Non occorreva molto per capire che qui gli affetti erano stati un culto, E proprio per questa ragione erano decaduti in vizio e follia. Infine, una razza svuotata di ogni logica e raziocinio s'era aggrappata a questo tumulto in forme di sentimenti. E l'uomo era adesso ombra, debolezza, nevrastenia, rassegnata paura e impudente allegrezza. Una miseria senza più forma, silenziosa come un ragno, disfaceva e rinnovava a modo suo quei miseri tessuti, invischiando sempre più gli strati minimi della plebe, che qui è regina. Straordinario era pensare come, in luogo di diminuirsi o arrestarsi, la popolazione cresceva ed, estendendosi sempre più esangue, confondeva terribilmente le idee dell'amministrazione pubblica, mentre gonfiava di strano orgoglio e di più strane speranze il cuore degli ecclesiastici. Qui il mare non bagnava Napoli. Ero sicura che nessuno lo avesse visto e lo ricordava. In questa fossa oscurissima non brillava che il fuoco del sesso sotto il cielo nero del sovrannaturale. Essendo mezzogiorno e come nei giorni precedenti verso quell'ora era piovuto, vidi il cielo coprirsi di un velo di ovatta che indebolì immediatamente le ombre delle case e quelle già brevissime delle persone. Alcune donne camminavano davanti a me, precedute da una coppia di preti altissimi, con le mani di cera chiuse intorno a un libro di pelle rossa, che presto sparvero sotto un portico con un fruscio di sottane. Le donne avevano in mano degli involtini bianchi e ogni tanto vi guardavano dentro e sospirando parlavano. Quando giunsero davanti alla chiesa di Sant'Angelo a Niro, si segnarono e poi entrarono nel cortile che le si apre di fronte. «O magnum pietatis opus!» era scritto sul frontone dell'edificio in fondo al cortile. La facciata, di un grigio inerte, era simile a quelle di tutti gli ospedali e gli ospizi dei quartieri di Napoli. Ma dietro, invece di lettini, si allineavano gli sportelli del Monte dei Pegni, grande opera di pietà del Banco di Napoli. Quando arrivai lassù, al secondo piano dell'edificio, c'erano già sulle scale, davanti a una delle porte più maestose che abbia mai osservate, gruppetti vari di povera gente, seduta quale sugli scalini, quale su certi involti. Erano le donne incinte, le vecchie, le malate, quelle che non si reggevano più in piedi, e avevano pregato un parente o un'amica di tenergli il posto nella fila. Spinsi la porta, facendomi cautamente largo tra quei corpi, e mi trovai in una immensa sala dal soffitto altissimo, illuminata da due ali di finestroni, sovrastato ciascuno da un altro finestrone di forma quadrata, ermeticamente chiuso. Nel vano pendevano, come cenci sottili, lunghe tele di ragno. Era la sala destinata al traffico degli oggetti preziosi. Una vasta folla, solo approssimativamente disposta in fila, tumultuava davanti agli sportelli dei pegni nuovi. C'era una grande animazione, perché proprio quella mattina era venuto l'ordine di dare il meno possibile per ogni pegno. Certi visi color limone, incappucciati in brutte permanenti, giravano e rigiravano tra le mani, con aria delusa, la grigia cartella del pegno. Una vecchia enorme, tutta ventre, con gli occhi infiammati, piangeva ostentatamente, baciando e ribaciando, prima di separarsene, una catena. Altre donne, qualche uomo, dai visi appuntiti, aspettavano compostamente sulla panca nera appoggiata al muro. Seduti a terra, dei bambini in camicia giocavano. «Nunzia Picella!» gridava intanto più in là, verso l'esigua schiera di quelli che ritiravano un pegno, la voce di un impiegato. «Aspasia Defonso!» I richiami si susseguivano di minuto in minuto, sopraffatti dal brusio accorato del popolo che commentava la disposizione nuova e non riusciva a rassegnarsi. Un agente con i baffetti neri e gli occhi grandi, languidi, che portava la divisa come una vestaglia, andava su e giù, indifferente e annoiato, fingendo di tanto in tanto di rimettere in ordine con le mani le file. Stava parlando con un tale, quando la grande porta della sala s'aprì con impeto per lasciar passare una donnetta sui 40 anni, con i capelli rossi, vestita di nero, che trascinava con sé 2 bambini bianchissimi. Quella infelice, di cui poi si conobbe nome e mestiere, Antonietta de Liguoro, zagrellara, cioè merciaia, aveva saputo in strada che il banco dove era diretta per impegnare una catena quel giorno chiudeva prima e non l'avrebbero più fatta passare. Con un viso rosso, congestionato, gli occhi celesti fuori dalle orbite, la de Liguoro scongiurava tutti di farle la grazia. Aveva bisogno di impegnare la catena prima della chiusura, perché suo marito doveva partire per Torino, dove il figlio maggiore era gravemente ammalato. Nulla valse a calmarla. Anche quando l'ebbero assicurato che poteva mettersi senz'altro in fila, continuò a singhiozzare, a chiamare: «Mamma del Carmine, aiutatemi!» Molte di quelle donne, dimentiche della grossa tristezza di poco prima, si occupavano ora di lei. Le più lontane mandavano accorati consensi e voti, le vicine le toccavano le spalle, le mani, le rassettavano i capelli con una loro forcina. E non si parla delle premure che rivolgevano ai 2 bambini, i prolungati e un po' teatrali Core e Mamma. Queste 2 creature, che potevano avere sì e no 3 o 4 anni, sottili e bianche come vermi, avevano sul viso di cera certi sorrisetti così vecchi e cinici che era una meraviglia, e ogni tanto guardavano di sotto in su, con un'aria maliziosa e interrogativa, quella loro frenetica madre. Una specie di movimento popolare portò subito quella donnetta, di cui ognuno sapeva ora vita e miracoli, davanti allo sportello, scavalcando la feroce burocrazia del turno. Ed ecco il dialogo che giungeva alle mie orecchie incantate. L'impiegato, dopo aver osservato la catena, asciutto: 3.800 lire. La zagrellara: «Fascite 4.000, sì». «L'ordine è questo, figlia mia». «Ma mio marito deve prendere il treno, ve ne scongiuro, teniamo un figlio malato e questi 2 piccirilli, fatelo per l'addolorata». L'impiegato, tranquillissimo, rispondeva: 3.800, si è volite». E rivolto a un altro impiegato: «Amedè, di a Salvatore che portasse nato caffè, senza zucchero». Con gli occhi infiammati, ma ora perfettamente asciutti, Antonietta de Liguoro ripassò di lì a poco davanti a tutti, trascurando fieramente, o forse senza affatto vederli a causa della sua angoscia, quelli che poco prima le erano stati vicini con la loro cristiana pietà. La seguivano, attaccati con una manina alla veste, i 2 bambini di cui lei non mostrava neppure di accorgersi. «Quella là», disse la gente a un giovanotto che aveva l'aspetto di uno studente e portava sotto braccio una borsa rossa da cui usciva la frangia di un asciugamano, «quella là è 1 anno che suo marito parte col treno per Torino. Non tiene nisciuna a Torino, neppure il marito tiene. Ch'ella non vuol fa a fila, e io non ha dica niente». Seguì con gli occhi l'abile zagrellara, che ora, fatta una breve sosta davanti alla cassa, scappava verso la porta col denaro e il grigio foglio del pegno stretti al petto. Squallida e pietosa, la folla dimenticava se stessa per accompagnare la presunta vittima con parole di conforto e indignazione contro un'antica ingiustizia che ora tutti trapelava. «Oh, Gesù Cristo la deve consolare! Quella mamma del Carmine l'aiuterà! Dio sopra la piaga mette il sale!» E sguardi di un odio astratto agli sportelli al soffitto, dove ciascuno vedeva passeggiare, tra le sottili tele di ragno, le autorità locali e il governo. Intanto la voce indifferente di un impiegato aveva ricominciato a chiamare: «Di Vincenzo Maria, Fusco addolorata, della morte Carmela». Improvvisamente Si fece un gran silenzio, poi un mormorio trasecolato, pieno di infantile stupore, percorse le tre file dei pegni nuovi. «Si può sapere che tenete?» chiese l'impiegato affacciandosi allo sportello. Nessuno gli badava. Una farfalla marrone, con tanti fili d'oro sulle ali e sul dorso, era entrata, chissà come, dalla porta sulle scale, sorvolando quella ressa di teste, di spalle curve, di sguardi affannati, e ora volteggiava, saliva, scendeva, felice, smemorata, non decidendosi a posare in nessun luogo. Mormoravano tutti. «O pilloco, giardina!» disse una donna al neonato che piangeva lentamente con la testa contro la sua spalla. Una vecchia deforme, vicino alla porta, con la bocca piena di pane, cantava. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.